La redazione culturale di Radio Cugico si sta popolando e io mando un grande abbraccio a chi ha iniziato da poche ore a lavorare per questi contenuti. La produzione, il montaggio di queste mie interviste è stato curato da Alessandro e Mariam, che ringrazio tantissimo, sperando di continuare in un produttivo lavoro assieme. Sapete che l'attenzione per il lavoro dei giovani su Radio Città Fujiko è qualcosa non solo importante, ma necessario, per cui c'è una sorta di amore e concretezza nel portare avanti questa nostra produzione. Grazie ragazzi, avanti così. Magari ve li presento anche in diretta, hanno iniziato da poco e quindi però sapete che con me o si diventa campioni o niente. Scrivetemi chi ha fatto questa citazione, abbiamo veramente completato il venerdì con me, ma a me basterebbe perderlo. No, con me si diventa campioni o niente, i dorsi, ma come li abbiamo i dorsi? Bambola, produzione Erte, Teatro delle Moline già in scena, ma sarà fino al 22 gennaio. Beh, è il campione, chi risponde? Il campione, Andrea, infatti dice Fantozzi è il biliardo, esattamente. Hai vinto delle nerbate sulle mani, Andrea. No, scherzo, scherzo anche. Un carissimo abbraccio, Andrea. Allora, dicevo, produzione Erte, Teatro delle Moline, fino al 22 gennaio, il martedì, il giovedì e il venerdì, sabato alle 21, mercoledì alle ore 19, domenica alle 18.30. Ripeterò questi contenuti anche all'interno della conversazione che ho avuto con Paola Vannoni. Sarà insieme a Roberto Scappin per questo lavoro prodotto e, come ho già citato in precedenza, per ERT, però al Teatro delle Moline. E cosa vi viene in mente se dico a casa bambola, che è un intimare? Beh, Casa di bambola di Ibsen, qui un classico che però viene interpretato, dove una particolarità su cui metteremo i riflettori sarà filo conduttore, secondo me, almeno dalle parole che ho ascoltato attentamente nel dialogo con Paolo Vannoni, sarà presente nello spettacolo che vede un titolo diverso. Non è La casa di bambola, ma è A casa bambola. È un intimare, tanto più di punto esclamativo al termine di questo titolo. Sentiamo quindi in approfondimento e in maniera più completa di cosa si tratta. Al Teatro delle Moline dall'11 al 22 gennaio, quindi già andato in scena, ma sarà, come ho detto, fino al 22, A casa bambola. È immediato, no? L'ispirazione Casa di bambola del grande Ibsen di Roberto Scappin e Paola Vannoni, che è qui con noi. Buongiorno, benvenuta su Radio Città Fujiko, Paola. Buongiorno a te, buongiorno a tutti, grazie. Partiamo dal titolo, ovviamente. Vedo alla fine A casa bambola un punto esclamativo. È un intimare, a dispetto. È un imperativo, è un imperativo. Sì. Beh, quando una donna tenta di allontanarsi dal focolare domestico, molto spesso l'uomo la richiama ai suoi doveri, i suoi doveri sacri, come dice Torvaldo, il protagonista di Casa di bambola, appunto. E quindi abbiamo voluto enfatizzare un po' questo aspetto del titolo, già dal titolo. La narrazione quindi tratta di un allontanamento spontaneo, cioè ci puoi parlare un pochino, perché già si intuisce, però entriamo sul palcoscenico senza, certo, svelare, ovviamente. Allora, no, noi siamo partiti dal terzo atto di Casa di bambola, che è l'atto in cui Nora, la protagonista, decide di lasciare il marito.

a seguirci in queste tante serate, devo dire. Sì, ha una estesa permanenza sul palcoscenico, insomma, fino al 22 gennaio, lo ribadiamo. Esatto, esatto. Quindi non lasciateci soli, siamo lì per Città voi. Fugico, no. Vedi, è qua al vostro fianco. Perfetto. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie a te. A casa bambola di Roberto Scappin e Paola Pannoni, che è qui con noi, alla quale auguro una buona giornata. Ciao. Anche Paola. A voi. Ciao. Grazie. Ciao, ciao, ciao. Come diceva un caro amico che alzava un po' troppo il gomito, ai postumi l'ardua sentenza, no? Le ascoltatrici, agli ascoltatori, l'ardua scelta, per meglio dire, anche se tranquillamente possono convivere l'estensione dello spettacolo a Casa Bambola. È dall'11, quindi già andato in scena, fino al 22 gennaio. Gli orari, li ripeto: martedì, giovedì, venerdì e sabato alle ore 21, mercoledì alle ore 19, domenica alle 18:30. Trovate podcast tutto poi sulla paginetta Facebook Produzione Erta al Teatro delle Moline. Poi Cuore di Cane sabato 14 gennaio, quindi domani alle ore 21, questo per ITC Teatro, Mikhail Bulgakov con adattamento e regia di Licia la Nera, che abbiamo sentito in precedenza. Quindi concludiamo il nostro Dream Team con la programmazione gennaio-aprile di Teatri di Vita, il 30° anniversario, e questa sera XYZ, dialoghi leggeri tra inutili generazioni, ideato e diretto da Andrea Adriatico, scusate, e ci sarà sul palcoscenico anche il sindaco della città di Bologna, Matteo Lepore. Siate felici, statemi benissimo per il weekend, perché vi aspetto super mattinieri già da lunedì alle ore 7 con i Magazine, in diretta al Breakfast Club. Ora un bel respiro, perché insomma, ma si torna poi in diretta, perché alle 11:30 avremo il Jazz Live, prima puntata del 2023, anticipato l'apertura, la fantastica sede del Torrione a Ferrara, e quindi ne daremo un avvio di stagione insieme a Radio Città Fugico. Ed IP Enciclopedico a breve, liberi dentro fino alle 9:30, 9:30, 10:30, rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali, coadiuvato da Andrea Utensili, 11:30 Jazz Live. Questa è la mattinata di Radio Città Fugico. Per le mattiniere, super mattiniere, super mattinieri, la sveglia alle 7, radiofonicamente parlando, con il Breakfast Club, ritornerà lunedì. Per ora un caldo abbraccio e un buonissimo weekend dal vostro William Piana. Grazie per l'attenzione, buona giornata, ciao ciao. You're blue.